La versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, 16:29, primi 28 secondi, siamo in anticipo rispetto agli standard di Radio 24 e malgrado il meraviglioso lancio della trasmissione di Sebastiano Barisoni, Focus Economia, che ci segue e che naturalmente vi invito anch'io calorosamente a seguire oggi in attesa di sapere se Veneto Banca finisce come la Popolare di Vicenza, cioè con Atlanta che pappa tutto, e quindi il bilancio fino a questo momento, lo dico ohimè piangendo, non col sorriso sulle labbra, non equivocate, è che per queste due sole banche, 210.000 soci vedono praticamente azzerato il loro valore, cioè ci hanno rimesso 11,5 miliardi di euro. A credere a quello che dicevano i regolatori, che avevamo le banche più sane del mondo, in vista domani della considerazione annuale di Banca d'Italia. Io mi aspetterei toni un po' diversi dal solito, vedremo, probabilmente mi sbaglio, sono come noto un provocatore credendo che i regolatori abbiano tenuto troppo a bordone a gestioni disinvolte e oggi dicano che è colpa dei tedeschi e dell'Europa. 11 miliardi e mezzo bruciati. Siete fin troppo pazienti, cari veneti in ascolto. 11 miliardi e mezzo bruciati, con la Banca d'Italia che fino a metà 2014 chiedeva che fosse la Popolare di Vicenza a rilevare la Ferrara e l'Etruria, che poi sono due delle quattro banche risolte a novembre. C'è qualcosa da aggiungere? No, non mi pare, c'è solo da piangere per il momento. Ma la trasmissione di oggi è dedicata al personale della scuola e a voi tutte famiglie. Perché? Sono parecchie le puntate che stiamo facendo sulla scuola, ma del resto l'anno scolastico volge al termine e ci sono due notizie sulle quali vale la pena di riflettere, perché già nel fine settimana mi aveva molto colpito che a protestare, primo aspetto, ditemi cosa ne pensate se siete famiglie, se siete rassegnati oppure no, per questo non protestate, però mi ha colpito nel fine settimana che gli unici a protestare contro il lunghissimo weekend 2 giugno fino a lunedì con le operazioni post-elettorali nelle città in cui si vota siano stati solo i presidi, i dirigenti scolastici. Nessuna traccia di proteste delle famiglie. Ovviamente a fine anno ogni singolo giorno del calendario scolastico serve a recuperare chi è un po' indietro, però i dirigenti scolastici hanno protestato e dicono: ma perché non si mette mano a organizzare i turni elettorali nelle caserme, negli altri palazzi del demanio dello Stato invece che nelle scuole che hanno già il calendario scolastico che hanno rispetto ad altri paesi europei, e quindi ci devastate regolarmente il fine anno scolastico? Io sono d'accordo, lo dico subito, con i dirigenti scolastici. Le famiglie italiane non protestano, anche qua rassegnazione. Però diteci cosa ne pensate, sia che siate docenti, sia che siate famiglie di studenti o studenti, ma so che a quest'ora gli studenti sono pochi in ascolto, e questo è il primo problema. Seconda questione, oggi alcuni quotidiani, soprattutto il Messaggero, che ha dato grande rilievo, sono uscite le notizie prese dalle fonti ufficiali, cioè dal MIUR, dal Ministero della Scuola e dell'Università, perché ci sono i risultati finali della ricognizione a cui questa gestione viene dato atto del Ministero con il governo Renzi fin dall'inizio ha puntato esplicitamente, della ricognizione delle percentuali di personale scolastico regione per regione che beneficia della legge 104. La legge 104, lo ricorderò tra poco, è la legge che consente 3 giorni al mese ai lavoratori dipendenti per assistere familiari gravati da patologie e disabilità. E sono usciti questi risultati. Ogni qualvolta il sottosegretario Faraone, già all'inizio dell'anno scorso, già nel 2014, aveva citato questa indagine che era stata avviata presso tutte le scuole italiane, quindi con la dichiarazione delle percentuali di personale dipendente che beneficia della legge 104, aveva suscitato ondate di protesta tra i sindacati. I risultati, devo dire la verità, fanno riflettere, perché rispetto a una media nelle aziende private italiane di dipendenti che beneficiano di questa sacrosanta legge, che non è in discussione ovviamente, la legge 104, ripeto, sostegno a chi ha in famiglia malati seri, quindi patologie croniche e handicap. Tuttavia la percentuale di dipendenti del settore privato è l'1,5%. I dati del MIUR, se li guardiamo aggregati a livello nazionale, ci dicono che il 13% rispetto all'1,5% del mondo privato, il 13% dei docenti di ruolo della scuola pubblica beneficia della legge 104, una percentuale che è quasi 9 volte superiore. e che insomma è tale da destare sospetti, per così dire. Anche perché, se poi vedete, tra i supplenti invece la percentuale si abbatte dal 13% al 5%, il che porta a induce a pensare non sono sicuri del posto, e guarda caso la percentuale inizia a essere solo 3 volte superiore rispetto a quella dei dipendenti delle aziende private. Il 13%, come capite, è una percentuale troppo elevata. Ci sono poi delle punte che sono oltre ogni beneficio di sospetto, eh? Per esempio l'Istituto Santi Bivona a Menfi, in provincia di Agrigento, vede beneficiare della legge 104 104 insegnanti su 170. Quindi siamo a percentuali che rispetto alla media statistica nazionale sono dei picchi totalmente, almeno in apparenza, inesplicabili. Se andiamo a vedere regione per regione, abbiamo regioni come la Sardegna, dove la percentuale sale al 18,2%, la Puglia al 15,9%, la Sicilia al 16,7%, rispetto ad altre regioni il Veneto 9,7%, la Toscana il 9,8%, il Piemonte l'8,9%, la Lombardia il 10,5%. Anche qua ci sono, come vedete, delle differenze nell'ambito di tra Veneto e Umbria, e 100% di differenza, 9,7 con 17 rotti e così via. Ci sono delle differenze che statisticamente non corrispondono alla aggregazione di patologie croniche e handicap in termini percentuali così diversi sul totale della popolazione, e quindi il Ministero dice adesso scatterà un piano antifurbetti. Allora, la legge 104, vi ho già detto di che cosa si tratta. Distingue naturalmente per grado di parentela rispetto alla titolarità del beneficio. Naturalmente stiamo parlando di benefici, di permessi retribuiti per i lavoratori dipendenti che riguardano innanzitutto i genitori naturali, adottivi e affidatari del disabile, poi determinati familiari del disabile, cioè sono i parenti affini entro il secondo grado, e c'è poi una tabella di eccezioni che arriva fino al terzo grado. Come funziona? Il familiare disabile presenta all'INPS un'autodichiarazione. Bisogna verificare il domicilio, nel senso che non è possibile con domicili diversi, tranne verifiche. Un'eccezione a questa regola generale riguarda quella del cosiddetto referente unico, nel caso in cui i genitori fruiscano alternativamente dei permessi per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazioni di gravità, cioè la legge prevede naturalmente l'adeguamento ai casi di separati e affidatari. Il diritto alla 104 viene concesso anche se nell'ambito del nucleo familiare del disabile ci sono conviventi familiari non lavoratori idonei a prestare assistenza, anche se sono presenti altre forme di assistenza pubblica o privata, anche con badanti e non profit, e spettano però a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno presso strutture ospedaliere o simili. Poi ci sono altre regole che indicano delle eccezioni, cioè si possono concedere anche in caso di ricovero a tempo pieno per minori disabili che hanno bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un familiare, con disabili, poveri loro, in stato vegetativo persistente oppure con una prognosi infausta, insomma i terminali per capirci. E naturalmente al riconoscimento che viene effettuato dall'ASL, secondo la procedura che vi ho detto, delle condizioni delle patologie, poi si affianca un sistema di controlli che va fatto secondo la norma attuale da ASL diverse da quelle che hanno rilasciato, hanno fatto la ricognizione delle idoneità delle patologie del congiunto rispetto al dipendente, e naturalmente a questo si aggiunge anche l'eventuale controllo effettuato dall'INPS. C'è una consolidata giurisprudenza che negli anni è cresciuta, faccio riferimento anche a questo, sul fatto che le aziende, tanto il pubblico che il privato, possano fare anche ricorso ad investigatori privati per pedinare il dipendente, per verificare se oltre alla validità fino a questo momento abbiamo parlato di questo, delle condizioni descritte dalla legge per poter beneficiare della 104, davvero poi utilizzi il tempo dei 3 giorni di permesso che vanno a carico dell'INPS, quindi retribuiti, per effettuare davvero l'assistenza al malato. E negli ultimi 2 anni hanno iniziato ad aumentare, sia pur in termini di poche unità, i casi di licenziamenti. La legge prevede che questo sia a caso per un licenziamento nel pubblico impiego anche, oltre che nel privato, per giusta causa. E l'anno scorso abbiamo avuto i primi casi all'ATAC di Roma e all'AMA, all'AMA in particolare, esattamente, di alcuni dipendenti che sfruttavano la legge 104 per fare shopping o andare in palestra. Tenete conto che l'AMA, nell'universo delle partecipate pubbliche, sembrerebbe avere, ma i dati erano del 2014, la vetta più elevata di dipendenti che tra le grandi partecipate pubbliche nei grandi comuni italiani beneficiano della legge 104. Era quasi 1 su 4 dei dipendenti dell'AMA Roma. L'APA Roma è attualmente anche in sciopero, e aggiungiamo quest'altra considerazione: ho trovato incredibile che il presidente dell'AMA abbia detto ai romani: beh, tenete i sacchetti a casa, perché qui sotto elezioni, per una ragione o per l'altra, oggi è uno sciopero, ma insomma la raccolta di munizioni non la fa nessuno. Perché io avrei preferito dire ai romani: beh, portate i sacchetti al Campidoglio, a dire la verità, perché sentire da un presidente dell'AMA tenete a casa l'immondizia perché non viene ritirata, perdonate, ma proprio non si può sentire, almeno dal mio punto di vista. Allora, la questione è capire come mai nella scuola italiana ci sia questa percentuale. Io vi ho già detto, i sindacati della scuola considerano questa indagine una specie di accanimento contro il personale della scuola. E allora abbiamo, per entrambe le questioni, il calendario scolastico e la legge 104, il nostro punto di riferimento minoritario, che usiamo spesso, almeno lo uso spesso io per le trasmissioni dedicate alla scuola. Cioè, abbiamo sentito appunto i dirigenti scolastici, perché abbiamo con noi il vicepresidente dell'Associazione Nazionale Preside, Mario Rusconi. Buon pomeriggio e grazie di essere di nuovo con noi. Buon pomeriggio a tutti voi. Possiamo partire un secondo, tanto lo liquidiamo più brevemente, sulla protesta. Insomma, voglio dire, il fatto che voi siate gli unici a levare una voce contro la manomissione del calendario scolastico con i turni elettorali ogni anno, come mai solo voi? Ma non voglio pensare che siamo gli unici a cui interessa il futuro formativo dei nostri studenti, sarebbe una tristissima considerazione questa. È che la scuola molto spesso viene considerata, e con tutto il rispetto, una specie di dopolavoro ferroviario di una volta, o di un oratorio in cui si piazzano i ragazzi, poi che i risultati siano positivi o negativi, il genitore magari preme perché siano quasi sempre positivi, ricorre spesso al TAR, al Consiglio di Stato, però poi paghiamo in termini di efficienza proprio di tutto il sistema formativo, e lo vediamo quando vengono fatte poi delle analisi e delle indagini a livello internazionale, che purtroppo i nostri ragazzi sono fra i più scadenti in prova, duole dirlo, ma è la realtà, soprattutto in matematica e nelle materie scientifiche. Ehi, sta parlando dei dati PISA, OCSE e così via. Esatto. E comunque registriamo il fatto che, ohimè, siete gli unici a protestare, mentre io credo che la vostra indicazione alternativa, cioè usare le caserme, parti del vastissimo patrimonio immobiliare dello Stato a questo fine, non creerebbe quello che crea ogni anno, perché tra turni amministrativi, referendum ed elezioni di diverso ordine, grado europeo e nazionale, ogni anno, cioè questa faccenda qua, secondo me sarebbe in maniera ordinatoria preferibile, perché non si creerebbe tutto questo pasticcio che c'è tutta la volta. Ma si potrebbero usare anche i gazebo, perché le elezioni vengono svolte per lo più in periodo primavera estate, non piove, non fa freddo, non vedo perché lì si debba adoperare solamente per le primarie. Insomma, i partiti politici dovrebbero mettersi un po' una mano sulla coscienza, non avviene molto spesso, come sappiamo, questo. Vedo che mi si fa presente per SMS che 1000 dipendenti dell'AMA faranno gli scrutatori a Roma. Siamo felici per, ovviamente, questa così alta sensibilità ai doveri civici che c'è nell'AMA. Nel frattempo i romani però preferirebbero avere anche un po' di raccolta dell'immondizia. Detto tutto questo, invece, veniamo a queste percentuali dei beneficiari nella scuola italiana. Sono ufficiali, una ricognizione del Ministero, regione per regione, che, ripeto, rispetto all'1,5% dei dipendenti del settore privato vede una percentuale, abbiamo sentito anche picchi molto più elevati, ma insomma superiore al 13%. Da che dipende, secondo lei? Ma guardi, io posso citare solamente due episodi che corroborano un po' la triste considerazione che pure lei sta facendo e che io condivido. Diversi anni fa parlai con un ministro della funzione pubblica, non voglio fare polemica, non dico chi fosse, se uomo o donna, in un convegno incontrato, dicendo: guardi, signor ministro, è un abuso, e portai avanti anche dei casi che avvenivano nella scuola da me diretta, e lui naturalmente mi assicurò che di là a qualche mese avrebbe provato a intervenire. Provò infatti a intervenire, è stato anche di parola, provò a presentare una sorta di disegno di legge, fu stoppato immediatamente sia dal suo governo sia in Parlamento, cioè è una cosa abbastanza spiacevole. L'altro episodio che devo citare, perché mi riguarda, durante i miei lunghi anni di presidenza ho avuto una volta una professoressa che aveva la 312, vale a dire 304, quindi io dicevo che aveva la 312 perché l'aveva moltiplicata per 3, padre, madre, sorella. Il risultato è che si assentava giustamente per 9 giorni al mese. Naturalmente, trattandosi di una materia importante, pensi anche il documento per la formazione dei nostri studenti. E quando poi casualmente, per vie che adesso non cito, a livello amministrativo, venne a sapere che adoperava spesso questi permessi per andare a svolgere un lavoro non autorizzato tra l'altro da me, quindi già questo secondo la legge causa di licenziamento anche per insegnanti di ruolo, mandai un faldone di centinaia di pagine alla Procura della Repubblica come esposto. Si svolse naturalmente il processo, io fui chiamato a testimoniare, e il pubblico ministero chiese una condanna, e dopo un po' di tempo venni a sapere che era stata prosciolta perché il fatto non costituisce reato, cioè questo fu il sigillo che mise la magistratura. Sì, capisco bene l'effetto che sentenze simili possono avere rispetto ai dirigenti scolastici, per così dire, un disincentivo abbastanza evidente, non credo ci sia bisogno neanche commentarlo, e non voglio entrare nel merito della faccenda. Però, cari ascoltatori, siamo sempre lì, cioè se noi dal basso, ogni volta che esce fuori qualcosa che ci riguarda, non ammettiamo che c'è qualcosa da cambiare e crediamo che si debba cambiare solo nell'orto del vicino, oppure spesso ce la risolviamo prendendocela con la politica in alto, che ha tutti i difetti, che certo io non sono tra quelli che criticano poco, e io credo che non andiamo avanti, cioè proprio non andiamo avanti. C'è chi tra voi, per esempio, lo riconosco, dice: per la percentuale così più bassa del 5% della 104 tra i supplenti rispetto a chi è di ruolo, conta anche l'età anagrafica, quindi avranno ovviamente i genitori meno anziani. Verissimo. Però il problema, ripeto, 1,5% del privato, come ce lo spieghiamo rispetto al 13%? Poi alcuni mi obiettano: ma non è, caro Giannino, che stai guardando il problema dalla parte sbagliata? Il lavoratore privato non può, anche avendone la necessità. Come non può? Perché non può? Perché la legge in che cosa glielo impedisce? O voi pensate che nel privato chi ha titoli non gli vengono riconosciuti? C'è sempre lo stesso iter di accertamento dei requisiti, tanto per la patologia dei congiunti a seguito dell'autodichiarazione, quanto per i possibili controlli. Certo, nel privato i controlli vengono disposti, questo sì. C'è poi un problema che altri mi segnalano, ed è un problema di cui abbiamo già parlato un paio di volte, in relazione alle difficoltà per chi per conto dell'INPS deve fare le verifiche. Ci sono vertenze interne anche qua all'interno dell'INPS, di personale che è tenuto a fare orari limitati, a retribuzioni molto limitate. Questo è verissimo. Però, ripeto, 1,5 contro 13%, siamo sempre là. Non è che sono due mondi separati a leggi diverse. In questo caso le regole sono simili, anzi sono le stesse. E quindi tra un minuto torniamo, intanto informazioni sul traffico. La versione di Oscar. Allora, i presidi, gli unici a protestare per il calendario scolastico accorciato ulteriormente per le elezioni si potrebbero fare in altri palazzi pubblici, e soprattutto questi dati ufficiali della legge 104, 13% dell'intero personale scolastico italiano, sale al 17% nel personale ATA della scuola, cioè personale tecnico, che fa pulizia e così via, 1,5% nel privato. Abbiamo anche alcuni sms, tipo Marco da Milano, che dice: io beneficio dice la legge 104, mia madre invade al 100%, prendo uno o due giorni al mese e tra un po' oppure il lavoro a rischio. A questo punto il rischio è che naturalmente la stretta sia anche su di noi per questi dati pubblici, e fa seguire delle considerazioni che vi lascio solo immaginare. Tra l'altro è un giorno particolare perché è uscito anche una finalmente sappiamo i numeri veri di come è andato la legge, il bonus 80 euro. Se qualcuno si ricorda, io fin dall'inizio dissi la fretta dell'annuncio che vi impedirà di metterlo nella dichiarazione dei redditi dell'anno giusto, per darlo immediatamente a coloro che ne hanno beneficio secondo la legge, incorrerete in errori di massa, perché come è inevitabile sul reddito realizzato mentre voi glieli state dando, che emerge una dichiarazione successiva, tutti quelli che sono vicini o poco sotto agli 8.000 euro, magari, e speriamo pure, andranno meglio, vi dovranno restituire. Ci smentirono all'epoca dicendo che eravamo gufi. Adesso ci sono le cifre ufficiali, cari ascoltatori: su 11,3 milioni di italiani che hanno percettori dei bonus 80 euro, 1 su 8, cioè 1,4 milioni hanno dovuto restituirlo, e di questi 380.000 addirittura fiscalmente incapienti, cioè sotto i 7.500 euro. Ecco, io non voglio gridare e urlare, perché questa è una percentuale, 1 su 8 dei percettori, a mio giudizio scandalosa. Perché? Perché è scandalosa? Perché la fretta degli annunci che si traducono in effetti a breve elettorali, non passando per una buona maniera di calarla nella realtà tributaria, e per questo oltretutto che non è stato possibile contabilizzarlo come taglio delle tasse, tra l'altro, ecco gli effetti che ha provocato. Io mi immagino quel milione e rotto di italiani con quale spirito e con quali bestemmie abbiano dovuto procedere al rimborso dopo averli percepiti, se mi permettete, visto che stiamo parlando comunque di italiani che un reddito ce l'hanno ma è un reddito basso. Ecco, un minimo di riferimento. A scriverlo oggi erano i quotidiani della catena quotidiana nazionale, quindi Carlino, Giorno e così via, Il Fatto Quotidiano. Domani lo troverete su tutti i giornali. Sentiamo intanto come la pensano alcuni di voi che hanno telefonato sulla questione di cui ci occupiamo, la legge 104 nella scuola. Cominciamo con Carlo, che ci chiama da Reggio Calabria. Buonasera, Carlo. Prego, ci dica, grazie di aver chiamato. Brevemente sintetico, visto i tempi della trasmissione che meriterebbe più minutaggio, questo internos. Vorrei dire insomma che a parzialissimo, assolutamente attenuante rispetto a queste statistiche, c'è da dire che gli insegnanti italiani sono tra i più anziani d'Europa, e per non parlare poi di estendere queste categorie, queste statistiche anche al resto del mondo. Quindi ci potrebbe stare che molti di questi genitori, di questi insegnanti già anziani di per sé, possono avere veramente, realmente bisogno, oltre ai parenti, ai figli e le altre 104. E questo però assolutamente non deve essere. No, ma guardi, io è lungi da me. Ci sono casi, esatto, e ci sono, e li vediamo anche noi stessi insegnanti. Perché insomma, il pericolo è naturalmente di generalizzare. Noi vogliamo semplicemente che ci siano controlli capaci di distinguere. Ci mancherebbe. Io non generalizzo, perché mi rendo conto che il welfare non dà risposte a chi ha malati in famiglia. E quindi vorrei su questo essere chiaro. Io per primo non mi permetterei minimamente. Certo, gli scostarsi delle percentuali è tale che qualcosa evidentemente non funziona. Sentiamo Mauro da Parma. Mauro, prego. Sì, due cose molto semplici e brevi. A me fa specie che si guardi con tanta attenzione e anche con molta, diciamo, criticità due aspetti che sono tutto sommato delle cose abbastanza secondarie o terziarie. Non tanto per, diciamo, la cosa in sé, perché può anche andare bene, conoscere bene la realtà, diciamo, della scuola italiana. Certo. Però è brutto sentire un dirigente che attribuisce a queste due pagliuzze il fallimento della scuola per talune discipline come la matematica o altro, mentre invece ci sono delle enormità, delle travi, diciamo, nella scuola italiana che nessuno guarda. Cioè si mette mano, magari un governo mette mano a una riforma che non è una riforma, un altro fa la stessa cosa, vanno certo a guardare tutti gli aspetti secondari. Capisco bene cosa dice. Cioè, ma anche cose gravissime. No, Mauro, ma guardi, nella media che i dirigenti praticamente stanno zitti o addirittura applaudono a queste deforme, non riforme che fa, che ha fatto Renzi, che ha fatto l'altro che l'ha preceduto. Siamo di fronte per esempio al fatto che nella scuola media insegnano matematica persino i laureati in biologia o in farmacia, che di matematica non capiscono un cazzo. Nelle elementari insegnano matematica i cosiddetti specialisti, che non sanno nemmeno fare le moltiplicazioni a due cifre. Chiarissimo. Aspetti, diamo però il diritto di replica al nostro Mario Rusconi, che è il vicepresidente dell'Associazione Nazionale Presidi. Prego. Ma guardi, a considerazioni abbastanza così, mi permetta la franchezza, sconclusionate, non so che rispondere, ci vorrebbero ore, per dire che la maggior parte delle cose che ho sentito dall'ultimo ascoltatore sono completamente evanescenti. Però volevo far notare una cosa detta in precedenza dall'altro ascoltatore, che mi sembra un insegnante, quando diceva gli insegnanti italiani hanno un'età media molto alta. Ma presumo che questo sia in tutta Italia. E allora come mai in Piemonte, che è considerata a livello internazionale la regione che dà complessivamente col Trentino Alto Adige i migliori risultati formativi per i nostri studenti, sia così bassa la percentuale di persone che utilizzano la legge 104 e sia molto alta invece in regioni, soprattutto del centro-sud e del sud in particolare, dove tra l'altro noto una corrispondenza biunivoca, come si direbbe come termine tecnico, fra l'alta percentuale di persone che utilizzano la legge 104 e le basse performance degli studenti. Vorrà dire qualche cosa? Naturalmente è una correlazione in senso tecnico, perché dal punto di vista empirico dovremmo avere molti più dati per poterlo definire un nesso di causazione, però è una correlazione questa avanzata che ha il suo peso, questa avanzata da Mario Rusconi. Io avevo qua un mucchio di telefonate e messaggi e posso solo ringraziare tutti quelli che possono partecipare. Sapevo che questo era un punto delicato. Grazie a Mario Rusconi, controllato su Radio 24, appuntamento domani mattina alle 8:15 con me e Alessandro Bila. Attenti a noi due.